Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Verso i 16-17 anni ho cominciato a mangiare il minestrone, tu? Ma diciamo che a me ancora adesso non è che piace ancora particolarmente. Adesso, che vuol dire che non sei cresciuta. Bene. Benvenuti a Mebius, adesso i titoli e poi incominceremo da qui, dal minestrone. Pizza, cotoletta e patatine fritte. Questi i cibi più amati dai più piccoli. Ma perché i bambini mangiano solo pochi alimenti? Questa la domanda di Lara. Ha debellato la tignoletta. La Napa Valley è salva. I vitigni californiani sono fuori pericolo grazie all'intervento di un agronomo toscano. Storie di stasi intestinali, caposaldo della medicina per tre millenni. Se ne parla in Organi Vitali, un saggio di un brillante medico messicano. Incontriamo Nao, un robottino capace di giocare e interagire con i bambini affetti da autismo. Allora, io avevo molti dai. Problemi da bambina sull'alimentazione. Proprio, diciamo, il tema che stiamo per toccare lo sento tantissimo. Te lo vivi molto. Sì, l'ho vissuto, ecco. Mi piace partire dalle nostre domande. Come avrete capito, è una domanda di una donna, probabilmente una mamma. Si chiama Lara e, insomma, diamole la parola. Buonasera. Come mai i bambini mangiano solo pochi piatti? Per esempio, odiano quasi sempre le verdure e adorano cotolette e patatine fritte. Quanto è vero, è verissimo. E devo dire che però non solo i bambini, cioè anche, nel senso che è una cosa che si rispecchia anche negli adulti, sì. O no? No, però scusa, no, il minestrone per esempio è una cosa diffusissima in tutti i modi, ormai nei supermercati sono anche molto buoni, sì, precotti. Vabbè, però se io ti metto davanti una cotoletta o un minestrone, tu cosa preferisci? Da adulto? Sì. Ma guarda, tutte e due, anch'io mangio le patatine, però i bambini, trovare un bambino a cui piace il minestrone credo che sia... Vabbè, da dare un premio a chi la... chiediamo ad un esperto che su questo tema, devo dire, ha molto da raccontarci. Allora, intanto diamo il benvenuto al dottor Giuseppe Morino. Buonasera a tutti. Buonasera Morino. Lei è responsabile dell'educazione alimentare dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma ed è anche coordinatore di un progetto di cui parliamo dopo che si chiama Nutribus. Intanto, professore, le chiederei, insomma, se possiamo dare una risposta a Lara, insomma, ma perché i bambini odiano così le verdure e mangiano obiettivamente poche cose e quelle che mangiano, insomma, ecco, sono proprio quelle lì, la pizza, ecco, le cotolette. Non solo odiano minestrone e verdure, ma è vero che mangerebbero due o tre piatti sempre. Allora, diciamo questo, la preferenza verso i cibi si sviluppa in funzione di due fattori. Fattori innati, per cui tra un individuo e l'altro c'è una preferenza più verso il dolce o verso il salato, e questo ognuno di noi ce l'ha dentro, ma soprattutto in relazione a quelle che sono state le esperienze sensoriali che il bambino fa durante i primi anni di vita, attraverso l'allattamento, attraverso il direzzamento, nel momento in cui il bambino comincia a essere portato alla tavola dei genitori, successivamente intorno ai 3 o 4 anni, quando comincia il periodo dei no e quindi ti dice no anche a quello a cui è abituato, quindi attraverso queste esperienze il bambino tende a arrivare ad un'alimentazione completa o molte volte, purtroppo, come dite giustamente voi, ad un'alimentazione selettiva. Questi sono chiaramente i fattori. Accanto a questo dobbiamo riconoscere che certamente la palatabilità di un cibo, il fatto quindi che ti stimoli positivamente, dipende chiaramente dai suoi costituenti. Certamente il grasso, e da questo punto di vista ovviamente le fritture, i dolci eccetera, sono ricchi di questi alimenti, hanno una palatabilità migliore rispetto a quello che può essere un alimento ricco invece di fibre come può essere le frutte e la verdura. Questa è la base del discorso, ma rispetto a questo quello che è importante è il messaggio che dobbiamo dare alla mamma che ci ha chiamato, ma alle mamme che ci stanno ascoltando, è che tuttavia possiamo fare qualcosa, non dobbiamo rassegnarsi. Questo fare qualcosa che cosa significa? Non dobbiamo mai costringere un bambino a mangiare una cosa che non lo vuole mangiare, ma dobbiamo stimolare la sua curiosità nell'assaggiare. Per stimolare, perché molti bambini non mangiano certi alimenti non in funzione del fatto che non gli piacciono, ma in funzione che non li assaggiano. Ah, ecco. Allora noi dobbiamo stimolare l'assaggio. In che maniera? lavorando sugli altri sensi. Noi siamo dotati di 5 sensi, abbiamo il tatto, abbiamo la vista, abbiamo l'udito, abbiamo l'olfatto, quindi il gusto è l'ultimo di questi sensi. Quindi dobbiamo stimolare, ad esempio, la mamma diceva non mangia frutta e verdura. Risposta: prendi tuo figlio, portatelo con te al supermercato, comincia a fargli scegliere a lui sul bancone della frutta e della verdura quello che vorrebbe eventualmente portare a casa, glielo fai toccare, glielo fai lavare a lui, quindi prende contatto con questo alimento, lo aiuti nel preparare lui dei cibi anche molto carini che possono essere stimolanti nel piatto. Ecco, quindi anche la presentazione è molto importante. Assolutamente, soprattutto nel bambino più piccolino, tra i 2 e i 4 anni, il colore, la presentazione diventa un elemento importante, ma diventa importante come io preparo la tavola, che tipo di cosa ci metto. Un'altra cosa importante, un consiglio, dire alle mamme di preparare dei bei piatti grandi colorati in cui il cibo che non è troppo gradito lo mettiamo al centro e deve essere una piccola porzione, perché se io riempio il piatto completamente, ecco, parlavate prima del minestrone, questo se uno non piace, la prima cosa che fa è tende a ritrarsi. Dice tutta assaggerà. Quella roba lì. Certo. Esatto, invece se c'era una piccola porzione magari è portato un pochettino di più ad assaggiare. Quindi dobbiamo fare un lavoro. Alla base di questo lavoro c'è però una cosa fondamentale, che quelle abitudini siano le abitudini corrette, siano le abitudini dei genitori. Mi capita frequentemente nella mia attività in ambulatorio di chiedere alle mamme: ma voi la mangiate la frutta e la verdura? Ma ecco. No, veramente, dottore, a noi non però piace. Il bambino farebbe bene, no? Però il bambino le guarda. Certo. Esatto, infatti l'esempio dei genitori è fondamentale. Abbiamo fatto qualche anno fa una ricerca sulle abitudini alimentari e sulle preferenze alimentari dei bambini e dei genitori, sia in età prescolare che in età scolare. Abbiamo trovato che assolutamente erano equivalenti quello che ci rispondeva, che poi ci ha risposto le mamme, quello che dicevano le mamme e quello che dicevano i figli di quello che mangiavano, sia in termini di preferenze, sia in termini di disgusto, di rifiuto. Quindi fondamentalmente, primo punto, un genitore deve proporre una scelta in cui lui è per primo a farlo. Certo. Secondo elemento, lavoriamo su un percorso multisensoriale in cui attraverso i sensi, il tatto, la vista, l'olfatto, stimoliamo la curiosità del bambino ad assaggiare. Sì, perché insomma è importante che si abbia una dieta variata, che in qualche modo ci siano tutti i valori nutrizionali molto molto ben bilanciati. Poi è indubbio che esistono dei cibi che sono più buoni, ragazzi. Sì, non c'è niente da fare. Questo certo. I bambini lo percepiscono, ma esattamente come lo percepiamo noi. Però noi dobbiamo lavorare nel non demonizzare nessun cibo. No, è giusto. Questo è fondamentale. Ma nell'abituale, la mia dovere si chiama per educazione alimentare, nell'educare il bambino ad un'alimentazione corretta, in cui impara a scegliere. Io dico, la cosa importante non è no a quello, no a quell'altro, eccetera. Sappiamo che ci sono delle cose precise, chi beve bevande zuccherate è maggiormente candidato al sovrappeso, c'è un rapporto diretto ovviamente tra queste cose, ovviamente lo sappiamo questo. Detto questo, dobbiamo stimolare il bambino a essere il più vario possibile. Perché più un bambino è selettivo, può andare verso due versanti, o verso l'obesità, perché mangia poi solo certe cose e quindi diventa in sovrappeso, certo. O in casi più seri, importanti, alcune volte li vediamo anche noi, andiamo invece verso il subito comportamento alimentare, che sono poi assolutamente seri e importanti in età adolescenziale. A proposito di questo, vorrei che lei ci parlasse di questo progetto, di cui lei è coordinatore, che dicevamo prima, si chiama Nutribus. L'8 marzo, quindi tra un paio di settimane, ci sarà un incontro importante a Roma presso il vostro ospedale, il Bambin Gesù di Roma, in cui parlerete proprio di questo tema. L'incontro ha per titolo "Mio figlio non mangia, come posso fare?" e avete pensato ad una giornata in cui educate in qualche modo bambino e genitore all'alimentazione. Nutribus è un progetto dell'ospedale con cui, oltre a occuparci di bambini che vengono da noi con già patologie, vogliamo portare educazione sul territorio. Siamo andati a Gifoni Film Festival, siamo andati in alcune realtà anche locali in cui c'erano incontri con famiglie, con pediatri, eccetera. Cosa ci è venuto in mente? Siccome oramai noi vediamo bambini, appunto, che ci vengono da noi per obesità o per disturbi del comportamento alimentare, bambini piccolini che non mangiano e creano dei grossi problemi nell'ambito familiare, perché un bambino piccolino, 2 o 3 anni, 1 anno che non mangia, crea una situazione di stress e di ansia rispetto alla famiglia molto importante. E la donna, la mamma, è la prima persona che vive appieno questo. Abbiamo pensato, festa della donna, festeggiamo in una maniera diversa, nel senso che diamo una risposta, cioè cerchiamo insieme delle risposte, ci sarà un gruppo di esperti, ci sarà la mia unità operativa, quindi pediatri, dietologi, nutrizionisti, ci saranno le colleghe psicologhe, le colleghe psichiatre, e ci divideremo in gruppo, ci sarà un'introduzione, ma fondamentalmente lavoreremo in gruppi divisi per età, proprio per mettere insieme le esperienze delle famiglie, delle mamme, dei genitori, e nel trovare insieme delle risposte che possano essere utili. Contemporaneamente la mattinata è dedicata alle famiglie, quindi se viene qualche ragazzo, qualche ragazzina eccetera, in ludoteca, perché l'incontro sarà al Bambin Gesù, alla sede del Genicolo, nella ludoteca ci saranno alcune mie nutrizioniste che lavoreranno con i bambini nel laboratorio del gusto. Sul nostro sito metteremo tutti i link per raggiungervi. Intanto... Assolutamente, perché è importante, mi scusi se sì, la interrompo, prego. E sul sito ospedalebambinogesù.it, ma appunto se voi fate un link va bene per quello, che il genitore che vuole partecipare si segni in maniera tale che sappia si possa prenotare. Perfetto, grazie davvero professore, in bocca al lupo. Grazie a tutti voi e un saluto a tutti i radioascoltatori. Buonasera. Grazie, buonasera. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sì, tu dici che una farfalla, ce l'ho qui davanti, sì. È un po' bruttina rispetto a qua, all'immagine che abbiamo della farfalla, però in fondo povera Cristina. Vabbè, però dai Federico, non fare farfallofobo, come adesso si dobbiamo dice. Chiedergli anche quanto è grande. Sì, si chiama, intanto ti posso dire che si chiama tignoletta dell'uva, tignoletta della vite, adesso magari poi entreremo nel dettaglio anche del nome scientifico. Però fa veramente dei disastri, non è così brutta, però no. Fa un po' di disastri. È che fa il suo lavoro, fa la sua vita. Sì, fa la sua vita che con sulla vite la distrugge, certo, tutto. Diciamo che in California, in particolare nella Napa Valley, che è insomma la valle californiana più famosa per il vino. Ha fatto veramente un grosso disastro, soprattutto negli anni scorsi si sono corsi dei rischi molto molto importanti a livello economico, senz'altro. Praticamente gli americani erano molto molto molto preoccupati. Allora che cosa hanno fatto? Hanno chiamato un italiano. Eccola qua. In realtà l'hanno chiamato dopo una serie di tentativi falliti. Comunque noi, questo italiano, stasera è con noi. Diamo il benvenuto ad Andrea Lucchi. Buonasera. Buonasera. Ecco, lei è ricercatore dell'Università di Pisa, è docente di entomologia viticola e ovviamente dopo una serie di tentativi falliti hanno dovuto chiamare lei, perché è esperto di questi insetti. Allora, intanto, non so, da cosa partiamo? Io direi, partiamo dall'insetto. Che tipo di insetto è? Federico dice che è bruttino. È un po' bruttino, sì. Cioè, la farfalla noi ce l'aspettiamo, no? Con le ali aperte, queste qui come al solito. Questi qui che danno un po' fastidio ce le hanno sempre un po' chiuse. Sì, molto meno colorate, però sì. Insomma. Quanto è grande? Quanto è grande? È grande circa 6-7 mm, quindi è una piccola farfalla. Ma 6-7 mm? Ah, quindi sì. È proprio una cosa... Ma quando ha invaso un posto, se ne vedono migliaia o...? No, solitamente non si vedono perché volano di notte, volano dall'imbrunire in poi, quindi di giorno solitamente stanno nascoste nella vegetazione, non si vedono facilmente. E da entomologo ce lo dica, è bruttina? Sì. No. Un entomologo, per un entomologo tutti ogni scarrafone sono belli, perché ci abbiamo l'affetto, no? Sono... Vabbè, ma senta, questa cosa fa? Si prende i chicchi e se li ciuccia? Allora, il problema, cioè la cosa importante è questa da dire, che questo è un insetto europeo, un insetto mediterraneo, che non era presente nel continente americano, e quindi questa è la novità, che gli americani se lo sono ritrovati senza saperlo, e quindi nel momento in cui lo hanno ritrovato nella Napa Valley se ne sono accorti tardi, perché aveva completamente distrutto l'uva di un vigneto, per cui in genere loro sono molto bravi a fare in queste cose. Appena trovano un insetto nuovo che non era presente nella loro regione, organizzano una task force per cercare di eliminarlo, e quindi il motivo per cui sono stato chiamato io è questo. Cioè, in quel caso era proprio una minaccia grossa. Allora, diciamo che il nome scientifico di questo insetto è Lobesia botrana, corretto? Lobesia botrana, detta sì. Tignoletta. Sì. Noi in Italia lo conosciamo abbastanza bene, giusto? Sì, in Europa diciamo, sì, nei paesi del Mediterraneo, però loro non lo conoscevano, ma lo temevano, perché in Europa è l'insetto più importante della vite, quello più pericoloso. Quindi loro non volevano averlo e non volevano che si diffondesse in tutto il loro paese, no? Quindi quello che hanno tentato di fare è di eradicare. Ecco, però le chiedo due cose. Intanto la prima è cosa fa? Prende il chicco e se lo succhia? Com'è allora, che viene distrutta? La farfalla in sé non è dannosa, sono dannose le sue larve. Ah, quindi la farfalla depone le uova sui grappoli, nascono le larvette che bucano il grappolo e in questo modo aprono la strada ai marciumi. Per cui poi il grappolo marcisce perché i marciumi poi determinano il danno principale. Non è più possibile, insomma, tirare non si può vinificare. Non si può vinificare. Sì. Ecco, l'altra cosa, Luchi, però, se qui da noi è così nota, come mai questi insetti ormai, come anche altro, si muovono con i trasporti aerei? Questo ormai lo conosciamo perfettamente. Ma come mai là non sapevano cosa fare, hanno fatto i primi tentativi a sbagliare? Qui da noi come la debelliamo? Sì, da noi si sa perché è una farfalla endemica, c'è sempre stata, quindi sono secoli, diciamo in particolare l'ultimo secolo è stata controllata e tutti gli anni viene controllata con diversi sistemi. Quello che per loro era una novità è il fatto di avere ritrovato un vigneto completamente distrutto, però improvvisamente, senza conoscerne la causa, dopo hanno raccolto questo insetto, hanno fatto l'analisi del DNA e sono arrivati praticamente hanno trovato la risposta. In realtà poi si è scoperto che questa farfalla era arrivata 2 anni prima in Cile anche e quindi praticamente ci deve essere qualcosa che ancora non si conosce, qualche mistero. In qualche modo ci è arrivata, certo. E in che modo lei ha risolto, come dire, il problema americano? Allora, intanto loro hanno organizzato questa task force che comprendeva alcuni europei. Ecco, già questo è interessante, nel senso che succede in Italia, diciamo, non ci sarebbe una task force, ecco, non la chiameremo di sicuro così. Siamo un pochino, loro lo chiamano con termine inglese technical working group, gruppo tecnico di lavoro, no? Il merito che abbiamo avuto noi italiani è che rispetto ad altri abbiamo collaborato in modo più fattivo, in modo più, diciamo, siamo sentiti più impegnati in questa cosa, per cui quando poi hanno organizzato il primo incontro nell'aprile del 2010 in California di questo gruppo tecnico per analizzare la situazione e ho partecipato al primo incontro. Infatti che cosa poi ha proposto, insomma, sulla base della sua esperienza? Ho proposto tutta una serie di iniziative, prima di tutto per renderci conto di quanto questo insetto era diffuso in California, quindi un monitoraggio con delle trappole per poter catturare questi insetti, queste farfalle, per renderci conto della situazione, quanto era diffusa nella California e in ciascuna contea. Ecco, quindi scusi Luchi, quando lei dice trappole, per farfalle non ci è chiarissimo, forse ce lo deve chiarire perché... Praticamente delle trappole di plastica con un tetto e una base. La base è collata, praticamente c'è una colla e poi c'è una sostanza che attrae i maschi perché praticamente è impregnata di odore del feromone della femmina. Ah, li ingannate proprio. Sì, perché in genere nelle farfalle sono le femmine che producono questo odore per attrarre i maschi nelle fasi che precedono l'accoppiamento. Ma allora l'industria ha prodotto per ciascuna farfalla il proprio odore. Ed esiste anche l'odore di questa tignoletta. Allora, mettendo questo odore in queste trappole, i maschi arrivano, rimangono incollati alla base e quindi uno si rende conto se ci sono o se non ci sono. Ecco, io ho visto un po' i numeri di questa operazione. Nel 2010, quando è partita l'operazione, voi siete riusciti a catturare in qualche modo qualcosa come più di 99.000 esemplari. Sì. E qualche anno dopo praticamente erano scomparsi attraverso questo censimento, diciamo. No, allora il censimento è stato la base su cui impostare poi la lotta. Sì. No? Quando abbiamo fatto questo censimento si è visto che l'insetto era presente in 10 contee, però in alcune contee in numeri molto bassi, sono stati catturati pochi insetti. Invece nella contea di Napa, che è stata la prima, loro la chiamano Ground Zero, no? Cioè quel vigneto l'inizio. Dove è stata ritrovata, dove è l'inizio di tutto, sono stati catturati parecchie migliaia. Allora poi nell'anno stesso si è messa in atto una strategia che consisteva prima di tutto nell'informare la popolazione. Pensi che soltanto nella città di Napa l'ufficio agricoltura ha inviato 40.000 cartoline ai cittadini, perché poi nei giardini loro hanno anche le viti nei giardini, no? Per cui invitandoli a tagliare i grappoli, a eliminarli. E anche magari a individuare gli insetti, o no? a individuare gli insetti. Infatti hanno invitato, praticamente hanno organizzato, in queste cose devo dire sono bravissime, hanno organizzato degli incontri con gli agricoltori, ogni mezz'ora facevano una formazione per informare sia in spagnolo che in inglese gli agricoltori, e in un giorno solo hanno partecipato in 400. Quando lei diceva task force, in effetti proprio anche questo, nel senso che poi il costo dell'operazione è stato di circa 30 milioni di dollari, quindi anche un investimento dal punto di vista economico. Certo. D'altra parte è l'unico sistema per cercare di risolvere, perché lei pensi che un insetto così, se si diffonde nel continente, quello significa ogni anno una perdita, anche da un punto di vista ecologico, non solo economico, cioè vuol dire investono in partenza cercare di eliminarlo questo insetto, se lo eliminano, eliminano il problema, non è facile eliminarlo, ma loro investono per tentare. Ecco, ma Lucchi, però qui da noi in Europa è completamente sotto controllo la cosa oppure no? La cosa è sotto controllo purché ogni anno si facciano uno, due, tre interventi insetticidi. E diciamo che il censimento con le trappole è la parte preliminare. Poi ovviamente va fatto una disinfestazione, come dire, per eliminarle completamente. Allora, il problema. Quello che questa task force ha deciso è stato quello di intervenire con dei trattamenti insetticidi e allo stesso tempo applicare un sistema che noi applichiamo, io applico normalmente, è quello di usare i feromoni. Non so se avete mai sentito parlare di, c'è un metodo che si chiama il metodo della confusione sessuale. No, è un sistema che è quello che poi è stato applicato dietro mio consiglio, anche di altri, in tutta la Napa Valley. Praticamente si tratta, vi ho detto prima che una femmina attrae il maschio producendo un odore in piccolissime quantità. Allora, se noi mettiamo nel vigneto degli erogatori, dei dispenser, che emanano questo odore femminile, il maschio non riesce più a trovare la femmina e quindi non avvengono gli accoppiamenti. Siccome come coloro che fanno i danni sono le larve, che nascono dalle uova, se la femmina non si accoppia, non depone uova, banale, uova larve, e in questo modo si previene il danno, no? Questo è un sistema ormai che si sta diffondendo in tutto il mondo, e anche noi in Italia stiamo lavorando da tanti anni, ed è biologico. Certo, non c'è nessun pesticida, non c'è niente, Si mette una bassa quantità di questo feromone sintetico e in questo modo cerchiamo di impedire gli accoppiamenti. Quindi questa cosa è stata fatta nella Napa Valley per 2 anni consecutivi, e praticamente si è passati da quel numero di catture che lei aveva citato prima a quelli di... Praticamente nel 2013 sono state catturate 30 maschi in tutta la California. Ah, figuriamoci, niente praticamente. Niente, nulla. Tant'è che gli americani ora sono convinti di aver risolto il problema. Io non sono ancora convinto. E nell'ultima riunione, perché poi abbiamo fatto 5 riunioni di questa task force. 5 summit. Sì, 5 summit. 4 in California e nell'ultimo sono stato a Boston, dove c'è un po' il quartier generale del Ministero dell'Agricoltura che si occupa di queste cose, degli Stati Uniti, e loro in qualche modo sono talmente contenti che pensano di aver risolto il problema. Io ho espresso un'opinione contraria dicendo, visto che abbiamo fatto tutti questi sforzi, cerchiamo di dedicare a questa cosa ancora un po' di tempo per capire se veramente abbiamo risolto il problema o se gli insetti sono talmente pochi che non riusciamo più a catturarli. Vabbè, ma la richiameranno, Lucchi, lei lo sa, le arriverà un'altra telefonata da Boston. Ma siamo sempre in contatto, Il rischio qual è adesso? Che in Cile non sono riusciti a fare questa cosa e quindi c'è il problema, c'è la preoccupazione che questo insetto possa rientrare in California, non solo dal Cile, ma anche l'hanno ritrovato in Argentina. Possa tornare in qualche che modo. Possa tornare. No, meglio tenere gli occhi aperti. Va bene. Grazie, Lucchi. Allora, congratulazioni, complimenti. E insomma, teniamoci informati anche noi. Va bene, buona serata. Buona serata e buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Come ho detto poco fa, prima della pausa, ci interesseremo essenzialmente, principalmente, di stasi intestinali. Adesso vi spieghiamo bene il perché. Il tutto nasce da un libro, Organi Vitali, edito da Adelphi e scritto da Francisco González Crussi, medico messicano, un libro decisamente molto interessante e anche molto divertente. Per parlare di questo libro ho qui con me questa sera Marco Missiroli. Buonasera Missiroli. Buonasera a tutti. Ciao Hans, scrittore, sei anche giornalista, molti probabilmente ti conoscono per Il senso dell'elefante, edito da Guanda, che era anche tra i finalisti del premio Campiano. Allora, tu hai letto questo libro di Crussi? L'ho letto e mi ha sorpreso. Dei libri così non se ne trovano tanti in giro, sinceramente. No. Organi e simbolismi e cose strane. Di cose strane qua e di aneddoti ce ne sono. Non so. Veramente una valanga, è un libro di 320 pagine, molto denso, ma che si può leggere con un estremo godimento e piacere. Allora, ho detto che ci occuperemo di stasi intestinali perché è uno degli elementi centrali, insomma, di questo libro. Stasi intestinali, alcuni qua, insomma, in redazione si diceva sarà chiaro a tutti di che cosa si tratta. È quel modo, come dire, molto elegante di parlare, insomma, di stitichezza, no? Questo è. Ecco, però per noi, cominciamo da questo, ti chiedo questa opinione e anche questo commento, so che ne sai di queste cose, però per noi oggi è un problema, sì, è abbastanza diffuso, ma come dire, è una delle tante patologie minori che conosciamo e fanno parte di una certa quotidianità, ma praticamente per 3 secoli, per 3 millenni, intorno a questa cosa della stasi intestinale si è sviluppata l'intera medicina, no? Sì, era un centro di un universo. Se adesso basta il confetto Falqui, una volta asportavano addirittura il colon. Infatti ci arriviamo fra poco. Si credeva assolutamente che nell'intestino, nella stasi intestinale, ci fosse un processo di autoavvelenamento. Chi teorizzò, secondo Crussi, questa, diciamo, pazzia era Metchnikov, che era un medico un po' bizzarro ma anche molto attento, che diceva che assolutamente il colon e l'intestino erano stati fatti per gli erbivori, per gli animali che mangiavano tante verdure, esatto, chiamiamole così, e che quindi per l'umano era in più. Quindi è proprio un errore di natura spaventoso che ci veniva addosso e quindi in qualche modo dovevamo provvedere. Ma anche tornando indietro mano a mano nei secoli, ma fino all'antichità, quest'idea che bisognasse purgarsi, liberarsi, insomma, di delle feci sostanzialmente, era veramente, come dire, un mantra, una direzione fondamentale della medicina. Era fondamentale perché si legava, anche secondo Crussi, all'anima, per cui più leggerezza interiore, più elevazione mentale. Da questo punto di vista poi andò in moda fino alla corte di Luigi XIV, dove i cristeri erano assolutamente di moda, addirittura avevano dei kit, tutte le donne in gioiellate, dorate e con tubette assolutamente vintage di moda, che facevano scatenare concorrenze incredibili. Cioè, aspetta, scusa, questo descrivi un po' bene come... Crussi descrive il fatto che nella corte di Luigi XIV la moda dei clisteri è la moda quasi per gestire la bellezza. Chi aveva più clisteri, più di moda, quindi con perette dorate, con clisteri assolutamente lucidi, scintillanti, era molto più pulito anche moralmente. Per cui c'era questa gara ai kit della purificazione interiore e interna. Drammatico. Va bene, senti, veniamo al nostro, che è un medico relativamente, insomma, contemporaneo. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando, Marco, di dottor Arbuthnot Lane, che si ispirò appunto a Metchnikov per quanto riguarda la pulizia interiore, che a un certo punto si ispira un po' a una figura di donna, che le donne, si sa, soffrono più degli uomini di stitichezza, e quindi si è ispirato lombrosianamente ai tratti che ispirano alla stitichezza, a vederlo di persona. Non so se tu hai... Qui mi sono segnato il passaggio del libro in cui lui descrive praticamente... No, il libro raccontando appunto del nostro, dice in che modo lui interpretava, come dire, la tipica vittima di questa tremenda malattia, che lui dice era per solito una donna di carnagione smorte, con pesanti calamai agli occhi, di corporatura tendenzialmente scarna, perché tra gli effetti diretti dell'autointossicazione cronica erano la perdita di grasso, il deperimento muscolare e alterazioni della cute, che perdeva consistenza e assumeva pigmentazione cenerognolo, la sudorazione odorava sgradevolmente, le estremità erano fredde, al tatto lamentava cefalee, andava soggetta a perdere il controllo di sé, perché qui adesso si va increscendo, il controllo di sé a stati depressivi, il cedimento della parete addominale a causa della flaccida muscolatura portava al dislocamento verso il basso dei visceri, nei casi più gravi l'apatia mentale volgeva in suicidio o in imbecillità e i cambiamenti si facevano allora drammatici, i capelli discoloravano e potevano cadere, interveniva atrofia tiroidea e diversi organi potevano riportare seri danni inducendo i sintomi corrispondenti. Per evitare tutto ciò il nostro cosa faceva? A questo punto appunto ordinava l'eliminazione, l'asportazione totale del colon, soprattutto della parte finale e quindi per tutta quasi la popolazione. Questo si verifica perché tutti avevano questi sintomi, quasi il 99%, e lui fa levare colon a tutti e soprattutto dice che questa asportazione del colon avrebbe evitato malattie della pelle, acne, epilessia, ebetismo, la tiroide. Ma siamo nell'Europa fino all'800, primi del 900, e c'è un sacco di gente che va da lui a farsi operare. Tantissime, quasi di moda, quasi come un medico plastico dei giorni nostri, quindi c'è questa fila di persone senza colon. Lui cosa faceva? Toglieva il colon e congiungeva. Esattamente, ricongiungeva. Questo cosa portava? Una stasi intestinale ancora superiore, più grave, e soprattutto un deperimento molto più veloce. Quindi le donne che andavano a operarsi, perché si passò la voce, diventavano sempre più deperite. Cioè corrispondevano sempre più alla sua descrizione. Però è abbastanza impressionante il fatto che questo è rimasto, cioè quando è morto c'è stato un grande funerale con grandi onori, riconoscendo a lui un ruolo fondamentale nella ricerca medica. Assolutamente, probabilmente la fama è andata oltre i risultati. Esattamente, e quindi una volta andava anche così. È anche il caso di un altro esempio che fece Crussy e che ha fatto, tra l'altro il libro è molto divertente, non è assolutamente solo scientifico, è scientifico ma con base ironica, e dopo l'asportazione del colon racconta di questa fistola gastrocutanea. Questa è l'altra storia di cui volevo appunto che tu ci dicessi qualcosa. Vuoi anticiparti tu qualcosa? Oppure... Dunque, io so, anche qui mi deve aiutare, c'è il nome di un personaggio che viene... Sono due i personaggi, siamo negli Stati Uniti, siamo intorno al 1820-1830, c'è anche una data precisa, adesso magari ho qui davanti il libro, vado a risalire, quando a un certo momento un povero signore che ha, credo, una ventina d'anni, un vagabondo, gli succede un guaio, un giorno insomma riceve un colpo di fucile a pallettoni abbastanza vicino, e che cosa accade? Accade che ha una ferita talmente brutta che la gente che gli è attorno e vede la scena si fa il segno della croce, poi chiamano un medico, e lì da quelle parti c'è questo medico, William Beaumont, che passa di lì e vede che la ferita è davvero così tremenda che non c'è niente da fare. In verità il vagabondo che l'ha subita è un erboruto molto forte, estremamente vitale, ha un organismo molto reattivo, per cui incredibilmente ce la fa a scamparla, ma c'è un ma, e questo ma è questo buco dove è entrato il pallettone che non si rimargina, quindi rimane costantemente aperto, per questo la chiama una fistola eterna. È eterna, abbiamo trovato il nome, Alexis St. Martin si chiama questo ragazzo. Sì, esatto. E Alexis St. Martin ha questo buco, viene... ricoverato per tantissimi mesi, resiste, e nella testa di William, del dottor Beaumont, quello che l'ha salvato, gli compare una strana idea, che è un po' da Frankenstein, cioè lo vuole studiare, e quindi se lo paga Alexis St. Martin, che protesta all'inizio, perché l'occasione di avere una fistola in un fianco sempre aperta che non rimargina è un'occasione ghiotta, per cui lo paga, gli dà $400 all'anno più vitto alloggio, e lui diventerà la sua cavia per anni, in cui potrà vedere all'interno dello stomaco, dell'intestino, in cui infilerà cannucce ogni volta che mangia. Allora praticamente lui cosa fa? Infila dei piccoli tubicini con dentro delle vari tipi di alimenti, li deposita praticamente nello stomaco di questa persona, e poi dopo magari 6 ore oppure 12 oppure 18 va a vedere, li ritira fuori e vede in che modo c'è stata una degradazione chimica, no? E quindi in effetti attraverso questo caso assolutamente unico la medicina viene a scoprire com'è l'origine chimica della decomposizione del cibo, perché fino a quel punto, Crussy nel libro lo racconta, ci sono le idee più strane su come avviene la digestione e non si parla di procedimenti chimici. Assolutamente, si pensa addirittura che sia un processo alchemico quasi a un certo punto, che ci sia qualcosa di strano. In verità, con questo modo, col povero Alexis St. Martin, si riesce a risalire al fatto che c'è una decomposizione chimica acido, e che quindi è tutta una composizione logica. Abbiamo una vittima in tutto questo caso, che è questo povero Alexis, abbiamo un carnefice, sì, che l'ha fatto per la scienza e anche un po' per la gloria. C'è anche da dire che Alexis più volte cerca di sganciarsi, no? Però è anche una persona alcolizzata che non ha soldi, quindi ritorna indietro. Però lui ha la percezione di questa cosa che, insomma, deve troncare con questa essere cavia costantemente, ma invece il medico non demorde, però demorde perché muore a un certo punto, se no lui avrebbe continuato. E però questa persona, questo ragazzo, quando gli è successo il tutto, arriva anche a un'età considerevole, a 80 anni e passa, no? E questo qui è un po' quello che gli ha dato anche la gloria successiva a William Beaumont, perché non solo è resistito, e questo è dovuto al suo fisico molto coriaceo, ma anche semplicemente perché poi altri, poi Gonzalez Crusi non lo scrive questo, ne hanno approfittato, e lui era talmente abituato a questo buco perenne che poi a un certo punto si è chiuso. C'è da dire che per tamponarlo, quando non lo ispezionava, usava di tutto, dai tappi di sughero alle garze, insomma. Una cosa insomma, è veramente tremenda. Possiamo dire, Marco, che il libro è pieno di tanti altri episodi, aneddoti, tutti di questa portata, e insomma io penso che possiamo assolutamente consigliarlo. Tutti meravigliosi, da un'impiccagione che in mal riuscita, che porta a resuscitare una donna fedigrafa, a tantissime altre cose, alla moglie di Sartre, a Chopin, a Nerone, soprattutto a Napoleone. Certo, che con i problemi di patologie varie ne aveva migliaia. Marco Missiroli, grazie. Grazie a voi. Ricordo il libro di Francisco Gonzalez Crusi, Organi Vitali, edito da Adelphi. Grazie Marco ancora. Grazie a voi, grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Benvenuto nel gioco Riconosci gli animali. Ecco le istruzioni. Il gioco è veramente semplice. Prima penserò ad un animale e poi te lo dirò. Quindi dovrai farmi vedere l'animale che ti ho detto, scegliendo tra le carte a tua disposizione. Se vuoi giocare adesso, dimmi di sì, altrimenti se non vuoi giocare dimmi di no. Sì. Fammi pensare ad un animale. Ok, ho scelto. Dimmi se trovi l'immagine di un pollo. Adesso permettimi di darti il tempo per trovare una carta. Intanto cerchiamo la carta del pollo. Ecco, trovata, gliela mostriamo, la mettiamo davanti agli occhi. Ok, il tempo è terminato. Adesso fammi vedere la carta che hai scelto. Ben fatto! Complimenti, sei bravissimo! La voce che abbiamo appena sentito è di Naur, un robottino di circa 60 centimetri della società francese Aldebaran Robotics. È un robottino che può essere utilizzato con diversi scopi. In questo caso, qui a SMAU Bari 2014, partecipa ad un progetto importante, si chiama Saracen. Adesso ne parleremo con due protagonisti di questo progetto, Francesco Adamo, soggetto attuatore del progetto, e con Daniele Lombardo, che è di Behavior, che adesso ci racconterà in che modo la sua società partecipa a questo progetto. Intanto, Francesco, ti chiederei di raccontarci in che modo NAO partecipa alla diagnosi e alla terapia rivolta soprattutto a bambini con problemi di autismo. NAO è un giocattolo molto intelligente, diciamo, solo che bisogna dare i contenuti a questo NAO. Noi diamo i contenuti nella parte di visione. NAO ha a disposizione, montato sulla testa, due telecamere, quindi possiamo fare elaborazione delle immagini. Questa elaborazione delle immagini ci permette di trarre degli indici sull'attenzione del bambino affetto da autismo. Questo ci porta a fare in primo momento la diagnosi, e quindi vedere l'aggancio oculare, a trarre degli indici tipo l'aggancio oculare del bambino, se guarda e se è interessato al robot, o comunque le espressioni facciali. L'aspetto della vista è molto importante per un bambino affetto da autismo, perché spesso rivolge la vista, è attento, ma rivolge la vista altrove. Proprio per questo, perché potrebbe avere il bambino affetto da autismo ha delle carenze nell'interazione sociale, ed è qui che stiamo cercando di migliorare questa interazione, anche perché da studi è dimostrato che questi bambini autistici sono attratti dalla tecnologia, quindi potrebbero essere attratti dal robottino. Nell'esempio che abbiamo appena visto è importante la vista, perché il robot riconosce la carta che il bambino, in questo caso interagendo con il robot, ha scelto, e quindi è importante che il robot insomma visualizzi questa carta e in qualche modo risponda, dia soddisfazione del fatto che insomma la carta è stata trovata correttamente, oppure insomma che la carta sia sbagliata, e allora in quel punto dà una seconda possibilità. Infatti è proprio questo la questione, diciamo. Diciamo che durante le sedute possiamo anche misurare altri parametri, perché il bambino potrebbe girarsi da altra parte e non guardare il robottino, o comunque non interagire. Da alcuni esperimenti abbiamo visto che comunque i bambini a più alto funzionamento hanno una buona reazione con il robottino. Una settimana fa abbiamo fatto un esperimento e il bambino si è messo a ballare addirittura durante la seduta. Sì, perché Now diciamo, ha diverse caratteristiche, può ballare, può camminare, quindi se il bambino diciamo, si distrae o rivolge l'attenzione altrove, lui in qualche modo lo può seguire. Questo è assolutamente fondamentale affinché appunto l'attenzione rimanga sempre vigile. Certo, lo può seguire e cercare di richiamare l'attenzione del bambino in modo da accaparrarsi l'interazione col bambino. Passiamo a Daniele, che invece è referente di behavior. Behavior sta per appunto comportamento, ed è assolutamente indispensabile che questo robot abbia dei comportamenti molto umani nei confronti di un bambino appunto speciale, come lo chiamate voi. Esatto, l'approccio del robot è quello del surrogato dell'essere umano. Rispetto all'essere umano non tradisce emozioni, ha la possibilità di avere un atteggiamento altamente ripetitivo, quindi di far ripetere gli esercizi più volte allo stesso modo, quindi non manda il bambino in sovrastimolazione. Inoltre l'aspetto giocattoloso che lo caratterizza fa sì che diventa molto attraente, e dagli esperimenti che abbiamo fatto abbiamo visto tra l'altro che l'approccio che qualunque bambino ha nei confronti del robot è esattamente lo stesso, sia che si tratti di un bambino speciale, sia che si tratti di qualunque altro bambino. No, poi se posso dire, l'esperienza qui in fiera, diciamo che non solo i bambini, ma adulti, piccini, tutti insomma sono attratti ovviamente da questo giocattolo intelligente. Sì, infatti, l'unica differenza è che l'adulto dopo i primi 10 minuti di effetto sorpresa tende ad avere il desiderio di collocarlo, cioè di dargli esattamente un ruolo, una funzione, ok, cosa ci faccio? Che è il primo ostacolo, no? Nel senso che dobbiamo cominciare a pensare che questi oggetti entreranno nelle nostre case così come è stato con il telefonino. I bambini invece hanno un approccio molto più semplice, mi piace, ci gioco. Ci puoi raccontare un pochino quelli che sono i giochi, tra virgolette, educativi che voi avete studiato con questo robottino e in che modo li utilizzate in maniera concreta? L'approccio che abbiamo utilizzato è, come dicono gli inglesi, di edutainment, quindi una piattaforma di educazione ma rivolta all'intrattenimento, in modo da unire il gioco alla formazione, no? Che è il massimo del risultato che si può ottenere. Fondamentalmente sono quindi dei giochi. La differenza sta nel modo in cui vado a interpretare i risultati. Il gioco degli animali che abbiamo sentito poco fa ci aiuta a capire come il bambino riconosce gli animali e quindi la differenza tra un animale e l'altro, ed è lo stesso gioco che si farebbe con qualunque altro bambino, però gli vado a valutare altri parametri che magari in altre situazioni mi interessano meno, quindi l'approccio fondamentalmente è di edutainment, li facciamo giocare. Mi pare che l'interfaccia sia anche abbastanza semplice, voi avete un tablet con una serie di bottoni, quindi può essere diciamo gestito da chiunque, ecco. Fate in qualche modo giocare il bambino e in questo modo ottenete anche dei grossi risultati. Ecco, ora vorrei capire in che modo state utilizzando il robottino, in che ambito. Attualmente sono partite delle sperimentazioni in modo da dimostrare con i fatti quali sono i risultati, ma soprattutto in modo oggettivo, tant'è che la collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, con l'Istituto Nazionale di Ottica e il progetto Saracen è finalizzato alla pubblicazione di risultati oggettivi attraverso anche una serie di misurazioni anche con sensori esterni rispetto al robot, in modo da certificare la validità della soluzione. La cosa che ci siamo preoccupati di fare, giusto per come dire, definire i contorni di questa situazione, è che abbiamo creato una piattaforma per poterlo utilizzare in modo semplice da parte di chiunque, senza dover essere un ingegnere informatico, altrimenti era poco significativa, perché a noi piacerebbe un domani che si potesse utilizzare a domicilio. Infatti speriamo che sia così, che questo giocattolo davvero intelligente possa entrare nelle case di chi ne ha bisogno. Grazie davvero. Grazie. Grazie. Ti è piaciuto Now, eh? Mi è piaciuto molto anche l'uso che questi ragazzi di Saracen ne fanno. Però lui mangia la minestra, minestrone. Secondo no, me no, perché aveva un aspetto molto da bambino, quindi mangerà batterie e wurstel e patatine. Le batterie con il ketchup. Esatto. Volevo anche aggiungere che quando l'abbiamo incontrato abbiamo fatto un video, l'abbiamo ripreso e l'abbiamo messo sul nostro sito, quindi lo troverete su www.moebiusonline.eu. Buona settimana a tutti. Buona serata.